voglio che vi rendiate conto di tutti i suoni che provengono dall'esterno della stanza. Ehi, voi! Ehi, Aleopa! Ciao, ragazzi! Facciamo una tournée nazionale di gare in bikini e stiamo cercando due massaggiatori per spalmarci d'olio prima di ogni manifestazione. Siete fortunate! C'è una città a circa 3 miglia in quella direzione. Sono sicuro che lì troverete due ragazzi. Joseph Gibbenrath, mediatore e agente di commercio, non si distingueva dai suoi concittadini per nessuna virtù e per nessun pregio particolare. Come loro era tarchiato e robusto, dotato di un discreto senso commerciale, unito a una sincera, congenita venerazione per il denaro. E come loro possedeva una villetta con giardino, una tomba di famiglia al cimitero e una devozione alquanto spregiudicata che con l'andare del tempo aveva finito col mostrare la corda, il debito rispetto per il Signore Dio e per l'autorità costituita e una sottomissione cieca ai ferrei comandamenti del decoro borghese. Questo era l'incipit di Sotto la ruota di Hermann Hesse. Listen to music.

Ora vi voglio raccontare una storia, però non spaventatevi, richiede veramente pochissimo tempo, però mi serve per introdurre il prossimo brano, che sarà l'ultimo dell'intera settimana. Circa un mese e mezzo fa, nel solito raccoglitore dove vengono messe le buste con i dischi che mi arrivano in radio, ho trovato una busta che arrivava dalla città di Berlino. L'ho aperta e al suo interno c'era un CD in frantumi, veramente in tantissimi piccoli pezzi. È la prima volta, tra l'altro, che mi arriva un CD così ridotto. A volte arrivano spezzati, ma non in quelle condizioni. Comunque c'era una lettera di accompagnamento che mi incuriosiva, spedita da Margaret Kammerer, che mi diceva che aveva voluto interpretare alcune canzoni italiane, tipiche della tradizione e non solo italiana. Quindi mi avevano incuriosito le sue parole, le ho scritto, gli ho richiesto di mandarmi il disco e quel disco mi è arrivato. Ci sono canzoni di Mogole Battisti, di Vinicio Capossela, del repertorio di Mina, e ce n'è una, quella che mi ha colpito di più, di Luigi Tenco, ed è quella con cui voglio chiudere questa intera settimana. Vi ripeto il suo nome, lei è Margaret Kammerer e questa è Vedrai, Vedrai. Quando la sera me ne torno a casa, non ho neanche voglia di parlare. Tu non guardarmi con quella tenerezza, come fossi un bambino che torna deluso. Sì, lo so che questa non è certo la vita che ho sognato un giorno per noi. Vedrai, vedrai, vedrai che cambierà. Forse non sarà domani, ma un bel giorno cambierà. Dirti come quando, ma vedrai che cambierà. Preferirei sapere che piangi, che mi rimproveri d'averti deluso, e non vederti sempre così dolce, accettare da me tutto quello che viene. Mi fa disperare il pensiero di te e di me, che non so darti di più. Vedrai, vedrai, vedrai che cambierà. Forse non sarà domani, ma un bel giorno cambierà. Non so dirti come quando, ma vedrai che cambierà. Thank you. Eclettica, stagione numero 13, settimana numero 32, volume numero 5. Indice, Ted, Leo and the Pharmacist. Diaframma, Modest Mouse, Underground Railroad, Bright Eyes, Cat City, Maps, Giardini di Miro, Bonde d'Orole, Bar, Off Montreal, Margaret Cameron.